Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette minuti, inizia la prima puntata di Focus Economia della settimana e allora i temi di questa giornata economico-finanziaria. Parleremo, la notizia è oggi su molti giornali, del taglio ulteriore al deficit che il presidente americano Barack Obama ha annunciato meno di un'ora fa. E questo perché l'America viaggia con un deficit ormai verso il 14% del PIL, un debito che è già al 70% del PIL, taglio molto duro. Alcuni commentatori l'hanno chiamato effetto Tea Party, ossia la parte più conservatrice dei repubblicani, le pressioni perché si riduca l'intervento e dello Stato, le dimensioni del budget statale, sembrano aver avuto un effetto anche sulla politica economica di Barack Obama. Questo per quello che riguarda il tema di attualità estera. Invece, per quello che riguarda le variabili economiche in gioco in questo momento, anticipo che le borse oggi sono poco mosse, meno 0,2% Milano, adesso vi darò poi il dettaglio delle altre borse, apriremo con un'analisi che ci ha molto incuriosito, l'ha fatta Giulio Sapelli, che è un economista, nostro ospite già in altre occasioni, e un'analisi sulle i tre cavalieri dell'apocalisse, come lui li ha chiamati, che minacciano in questo momento la globalizzazione o i principi sani della globalizzazione, quindi una ripresa economica sana e che investe i vari paesi su base mondiale. I tre cavalieri dell'apocalisse possono così essere sintetizzati, si chiamano disoccupazione, tassi di interesse e prezzo delle materie prime. Di prezzi delle materie prime, ossia di un eccesso di liquidità in giro per il mondo e anche in Europa, che non trova necessariamente sbocco però sui capitali e non diventa necessariamente capitale per le imprese, ma diventa anzi un elemento speculativo sui mercati anche delle commodities, quindi delle materie prime. Abbiamo parlato e lo ascolteremo nella seconda ora del programma, quanto a dichiarazioni, con Corrado Passera, numero uno del gruppo di Intesa San Paolo. Abbiamo ragionato di vari aspetti in questo momento come variabile anche qui che pongono qualche incertezza sulla tenuta della ripresa economica. Delle quote latte cercheremo di parlare, ve l'avevo promesso, di solito le promesse le manteniamo, stiamo cercando gli interlocutori, soprattutto chi ha firmato quel decreto che permette di far slittare ulteriormente il pagamento delle multe sulle quote latte, una cosa particolarmente spiacevole sotto due elementi: da un lato perché il 99,9% degli agricoltori queste quote latte le ha rispettate, oppure attraverso la possibilità offerta nel 2004 se le fatte ha pagato il condono, diciamo così, per gli sforamenti degli anni passati, e quindi diventa un premio ai disonesti, e dall'altro perché questi 30 milioni vengono levati dal welfare, in particolar modo da tutti i servizi sociali, e quindi elemento ancora più sgradevole a nostro giudizio. Dicevo, questi temi principali, i mercati come vanno? Negativi un po' tutti, ma poco, meno 0,2% Parigi, Londra meno 0,12%, Francoforte la migliore più 0,20%, l'America perde lo 0,21%, poche notizie oggi dalla borsa, l'euro scende sotto quota 1,35, 1,34,64, il peggior titolo tra quelli a maggiore capitalizzazione è UBI Banca, meno 2,3%, e Popolare di Milano meno 2,2%, ma anche Fondiaria perde il 2%, Monte dei Paschi l'1,80%, il Banco Popolare l'1,70%, i migliori sono Autogrill più 2,30, Prismian più 1,5, Buzzi più 1,20, come Fiat Industrial, l'1% lo guadagna Tenaris, ma anche Fiat e Azimut. 349-238-6666 per i vostri sms. Rapidamente le notizie in breve. Le borse asiatiche, volete sapere, questa mattina bene la chiusura a Hong Kong più 1,3% e bene anche in Giappone più 1,1%, Giappone che oggi ufficialmente ammette di essere la terza e non più la seconda economia al mondo, ammette il sorpasso della Cina. È il dato relativo al 2010, praticamente la prima volta dal 1968 che l'economia cinese supera quella giapponese. L'oro è poco mosso, lo dico a chi ci scrive, $1,359 l'once, il petrolio apre in calo $85,4, però questa è l'apertura oggi a New York. Poco fa il Brent ha toccato però un nuovo massimo dal 2008, il Brent è il petrolio che si tratta a Londra, il petrolio di riferimento del Mare del Nord, ebbene $103,96 al barile, la quotazione più alta dal 26 settembre 2008. E continuano i ritocchi al rialzo sulla rete dei carburanti, quasi tutti i marchi si sono portati sopra 1,50 euro, IP più 0,5 centesimi, Kuwait più un centesimo sul diesel, Tamoil 0,5 centesimi su benzina e diesel. E non inizio la settimana con la polemica sulla benzina, perché proprio poi ci roviniamo il resto della settimana, tanto lo sapete, non se ne esce. Andiamo avanti invece con l'economia internazionale. La borsa egiziana sarà chiusa fino a lunedì prossimo, cioè non aprirà mercoledì come annunciato, questo soprattutto per via degli scioperi che stanno paralizzando il settore bancario. La borsa egiziana è chiusa dallo scorso 27 gennaio. La manovra di Barack Obama, ripeto, ne parleremo più avanti, comunque la manovra finanziaria da $3,700 miliardi nei prossimi 10 anni per tagliare il deficit di $1,100 miliardi in 10 anni, quindi 110 miliardi all'anno. Praticamente il motivo è semplice, ripeto, il deficit americano viaggia già all'11% del PIL. È previsto però che venga portato nel 2015 al 3,2%, e quindi in 4 anni una vera e propria cura di cavallo per i conti americani. Tra l'altro la Casa Bianca ha annunciato pochi minuti fa, a sorpresa, una revisione al ribasso sulla stima di crescita per il 2011, non il 3,6% di crescita del PIL americano, ma un ben più modesto 2,7%, quasi un punto percentuale in meno a inizio anno. E la disoccupazione per l'anno in corso in America dovrebbe stare al 9,3% e non al 9%, quindi quasi un punto in meno percentuale di PIL previsto e un po' di 0,3% di disoccupazione in più. Parleremo più avanti del Financial Times, dell'endorsement, come si chiama in gergo, quindi del tifare a favore di Mario Draghi alla presidenza della Banca Centrale Europea. I dati della Banca d'Italia oggi sul debito, che è cresciuto nel 2010 a €1,843 miliardi, del 4,5%, però in lieve flessione rispetto al livello di novembre. La cosa positiva è che cala il debito delle nostre amministrazioni locali. Il calo si è registrato soprattutto nelle regioni, da 42 miliardi a 41,7 nel 2010, per le province da 9 miliardi e 100 milioni a 9 miliardi, in leggero aumento invece il debito dei comuni, salito da 48,3 miliardi a 48,9 miliardi nel 2010. Ritornerebbe la social card nel decreto mille proroghe attraverso una fase sperimentale che sarà gestita dagli enti caritativi. Nel giorno in cui, come riporto oggi anche la Corriere della Sera, insomma, il Parlamento sta segnando un nuovo record quanto a inattività, cioè dall'inizio del 2011 ha varato una sola legge, la conversione di un decreto legge sull'emergenza rifiuti. In tutto il 2010 sono state approvate solo 10 proposte che non provenissero dal governo. Praticamente dal 1 gennaio ad oggi, sono 409 giorni, il Parlamento si è riunito 171 volte, il Senato 129, è un record negativo. Un'ultima notizia che riguarda il certificato online, perché ne ha parlato oggi il presidente dell'INPS Antonio Mastrapasqua nel corso della trasmissione Savadanaio con Deborah Rosciani. e ha detto tra pochissimi giorni, insomma, metteremo online anche la visita fiscale, un provvedimento già annunciato dal ministro Brunetta. Sentiamo Mastro Pasqua. Tra pochissimi giorni metteremo anche online, esclusivamente online, la visita medica, la visita fiscale. Quindi che cosa abbiamo deciso di fare prontamente rispetto anche a questo problema dei certificati medici? Di rendere in esclusiva la presentazione della visita fiscale per quanto riguarda i datori di lavoro. Sarà nel giro di un mese liberata anche questa procedura, ovviamente l'annunceremo in tutti i modi giusti. Il valore aggiunto qual è? La persona si ammala, purtroppo, il medico la visita, manda telematicamente il certificato medico, come abbiamo detto, all'INPS, che ovviamente lo trattiene nella propria banca dati e lo gira al datore di lavoro. Il datore di lavoro sa che quella persona è malata immediatamente, se vuole, se ha dei sospetti o quella qualsiasi scelta libera dell'azienda, può comunicare telematicamente a noi la volontà di effettuare una visita fiscale. Noi gireremo sui portatili dei nostri medici la richiesta di visita, il medico che è più vicino, un po' come il sistema dei radiotaxi, localizzato, andrà a visitare la persona. Quindi nel giro di poche ore, questo è il nostro obiettivo, la persona dal momento in cui si è ammalata, al momento in cui potrà ricevere, se il datore di lavoro vorrà, una visita fiscale, potrà essere visitata. Vedo molti messaggi al 349-238-6666 sull'intervista che abbiamo fatto venerdì al sindaco del paesino in provincia di Venezia. Non possiamo tornare sul tema, attenzione a non confondere i rom con l'evasione fiscale, non c'entrano niente queste cose, per favore, con gli sbarchi dei clandestini a Lampedusa, sono temi molto molto diversi. Stiamo sul punto invece e torniamo a respirare, perché da Fossalta di Piave ai mercati internazionali il volo può essere un po' pindarico. In realtà non è così. In realtà nei prossimi mesi, da qui diciamo a giugno, andremo a osservare alcune dinamiche che definiranno poi l'intero 2011. Le dinamiche che abbiamo già visto in questo momento si chiamano tensioni sulle materie prime, ma non solo. Il dato di oggi sull'occupazione americana e sulla revisione al ribasso del PIL la dice lunga. E poi resta il tema della Cina, di una crescita cinese prorompente, ma anche di una crescita interna cinese con qualche preoccupazione, soprattutto il rischio di una bolla immobiliare. A mio avviso li ha riassunti molto bene, insomma, un articolo in cui si parlava dei tre cavalieri oscuri dell'antiglobalizzazione che si aggirano per l'Europa. Allora partiamo con una cosa molto molto tesa. Allora, spettri, tre cavalieri oscuri, tre cavalieri apocalittici si aggirano per l'Europa, i tre cavalieri oscuri dell'antiglobalizzazione. In realtà chi si aggira per l'Europa e per il mondo è anche, come diciamo scherzosamente, Giulio Sapelli, o lo spettro di Giulio Sapelli, che è un economista in realtà serissimo, insegna economia alla Statale di Milano, professore, nostro ospite più di una volta, perché con lui ci divertiamo sempre, per la precisione insegna storia economica e analisi delle organizzazioni. Professor Sapelli, buonasera. Buonasera a lei, agli ascoltatori, amico apocalittico. Ecco, le sono andati bene i Carmina Burana, per introdurre il tema leggero, lei ricordava in un pezzo sul Corriere della Sera, appunto i tre cavalieri oscuri dell'antiglobalizzazione. Allora, veniamo, e siamo molto seri per la precisione, certo, perché lei cita liquidità, costo delle materie prime e occupazione. Ci racconti perché esistono tre cavalieri, appunto, oscuri, immaginiamo su dei cavalli con delle falci e quant'altro, che rischiano di bloccare la globalizzazione così come l'abbiamo conosciuta fino adesso. La liquidità. Beh, la liquidità, perché tutti gli indicatori ci fanno dire che è finito il periodo di una liquidità abbondante, attenzione, di una liquidità abbondante che va dall'economia reale, no? Questa è una scarsità che già da molto tempo abbiamo rilevato, perché molta di questa liquidità creata anche dalla stessa banca centrale e dalla stessa liquidità interbancaria comincia a scarseggiare, anche perché cominciano a aggravarsi sempre di più gli indicatori che ci fanno dire che andiamo verso un aumento dei tassi di interesse. Quindi il denaro costerà più caro, ecco, ci sarà denaro ma costerà molto più caro, e questo naturalmente avrà, soprattutto in economie non altamente capitalizzate, avrà delle conseguenze nefaste sugli investimenti. Quindi dopo una ventina d'anni in cui abbiamo avuto scarsi investimenti industriali, perché la profittevolità spingeva gli investitori a dirigersi verso la finanza anziché verso l'industria, la grande liquidità, soprattutto immessa per salvare le banche da un lato e poi per sostenere per altro verso i mercati dei consumi, rischia adesso di generare per pericoli di inflazione, adesso bisogna vedere quanto siano veri o meno, ma diciamo che questi sono gli indicatori, un denaro che costa molto più caro, quindi diminuzione, ecco, degli investimenti. E ecco, professor Sapelli, siccome vedo già degli sms al 349-238-6666 che dicono: ma come, insomma, la Banca Centrale Europea ha appena confermato settimana scorsa che il costo del denaro in Europa resta all'1%, e obiettivamente abbiamo costi del denaro storicamente bassissimi, ai minimi storici in America. Io vorrei capire di quale universo lei stia parlando, nel senso che noi vediamo un'inflazione pericolosamente in crescita in Cina e una banca centrale cinese che oggettivamente ha rialzato i tassi di interesse, per cui lì c'è un problema legato anche e soprattutto a questo mercato immobiliare cinese che molti definiscono già in bolla. Ma dov'è che dovrebbe arrivare, da dove dovrebbe arrivare secondo lei un aumento dei tassi di interesse? Beh, già l'1% della banca centrale europea è molto diverso da quasi lo 0% della Fed, che punta a tassi zero e secondo me ha salvato l'economia mondiale fino adesso attraverso questa abbondantissima liquidità. Naturalmente però, e cominciamo proprio dai banchieri europei che sono i meno evoluti dal punto di vista intellettuale, perché interpretano il mondo della globalizzazione come hanno interpretato, come si interpretava anzi la difesa dalla crisi del 1929, e cominciano già a esserci dei rumors e delle tendenze al fatto che ci sarà un aumento dei tassi di interesse. Non lo dico solo io, ma questo forse probabilmente può essere pericoloso, il fatto che lo dica anche un premio Nobel, perché i premi Nobel, come si sa, generalmente vanno non agli economisti più brillanti, ma questo è un economista brillante, Mayer Spencer, appena scritto sul Financial Times un lunghissimo articolo dove sosteneva questa tesi con una dovizia di argomenti tecnici. Questo non vuol dire che ci sia ora, vuol dire che comincia a esserci una tendenza che farà aumentare il costo del denaro, perché ci sono pericoli inflazionistici per i grandi banchieri centrali. Il primo cavaliere lo abbiamo, diciamo, inquadrato, Sapelli. Il rischio che lei vede, non nel breve, brevissimo termine. Nel medio lungo. Nel medio lungo termine saremo tutti morti, visto che abbiamo avuto questa bella allegria di sottofondo, no? Magari, non lo dicevo non è una mia battuta, ci mancherebbe, lei sa benissimo. Poi sa che uno degli eventi più disastrosi è l'allungamento della vita umana dal punto di vista del rapporto costi-benefici. Sì, vabbè, adesso non la mette. Potremmo fare una trasmissione. Senta, facciamo una trasmissione, però non in orario di drive time, perché la gente guidare con una mano sola, Sapelli, è difficile nella vita. Per cui. Allora, andiamo avanti invece. Costo delle materie prime, che invece è un tema che noi stiamo trattando Davanti agli occhi di tutti. Esatto, materie prime alimentari, no? Ha fatto scalpore negli osservatori internazionali l'aumento del prezzo delle cipolle, che sono la base della dieta dei poveri contadini indiani, e non solo dei poveri contadini indiani, costano quanto un gioiello, perché soprattutto adesso vengono usate su larga scala per il biofuel. La stessa cosa può dirsi per la soia, qui c'è un'altra variabile che fa aumentare invece il prezzo, perché c'è aumentato enormemente l'uso che della soia fanno i maiali cinesi, che comprano soia tutto spiano negli ultimi anni. Intesi come gli animali cinesi, giusto? Perché i maiali cinesi, sai, in questo periodo. Diciamo i maiali cinesi. I maiali cinesi, dei cinesi, no? I maiali dei cinesi, Sapelli, così. I maiali dei cinesi, sì, voglio dire che ci sono i maialini italiani. No, guardi, è un periodo. Mangiano un sacco. Sapelli, è un periodo che parlare di maiali. I cinesi mangiano molto di più, stanno molto meglio, ma anche gli indiani. E poi invece ci sono materie che non sono materie prime, raw material, che non sono alimentari, ma sono invece quelle legate, come ho già detto molte volte, ai minerali ferrosi e non ferrosi, alle terre rare, soprattutto al petrolio. Lì c'è da un lato un aumento enorme della domanda, c'è una scarsità di offerta, soprattutto perché manca, come si dice in termine tecnico, il processo industriale che da materia grezza trasforma in derivati utilizzabili dall'industria queste materie prime. No, ecco, le ho chiesto di precisare i maiali dei cinesi, non quei maiali cinesi, perché sa dire maiali in questo periodo. Ah, perché la gente possa. No, se mi dice c'è il maiale italiano, c'è il maiale cinese, guardi, non è periodo, sapelli. Si fidi, maiali dei cinesi, maiali degli italiani. Allora, i maiali dei cinesi hanno in questo momento vita breve, diciamo così, però. Questo comporta poi un prezzo e una spinta sui prezzi di tutte le materie prime, le ricordavo, i raw materials, e va bene, ma anche le materie prime alimentari, che sono quelle che preoccupano di più, tutte cose che raccontiamo da giorni, e anche questo secondo cavaliere dell'apocalisse, diciamo, ce lo siamo inquadrato. Qua arriviamo al cavaliere pesante, l'occupazione. Allora, anche qui sappiamo che l'occupazione resta alta in Europa, resta alta in Italia, resta alta tra i giovani, anche sono concetti che conosciamo. In America ci si attende che possa calare, ma anche qui si parla di jobless recovery, quindi di ripresa economica senza creazione di posti di lavoro. Perché l'occupazione, e come va a saldarsi il tema dell'occupazione con i primi due cavalieri oscuri? Va a saldarsi soprattutto col primo e col secondo, con tutti e due i cavalieri, ma soprattutto con il secondo, cioè sul fatto che c'è meno industria, che c'è stato meno investimenti in attività che danno profitto e quindi che danno occupazione, quindi c'è troppo investito solo nella finanza. E poi soprattutto c'è un problema tecnologico. Le altre tecnologie di cui disponiamo, dato che siamo in un sistema capitalistico, risparmiano lavoro. L'impresa capitalistica mira fondamentalmente al profitto, non è un'impresa cooperativa, non è un'impresa no profit che hanno come fine, come loro consustanzialità invece la difesa del lavoro o un fondamento etico, e quindi l'aumento delle tecnologie, la disponibilità di tecnologie raffinatissime, naturalmente si aumenta la produttività del lavoro ma non aumenta abbastanza il volume della produzione, e quindi questo induce che cosa? Induce la creazione di una disoccupazione strutturale di lungo periodo, che non è neanche più contrastata da quella che l'ha contrastata negli ultimi 20 anni, cioè che cosa la contrastava? L'aumento del periodo di scolarizzazione delle giovani generazioni, è vero? E invece adesso noi vediamo dei giovani in tutto il mondo, anche in Tunisia, perché questa è la cosa straordinaria di questo fenomeno, e che unisce economie emergenti e economie invece avanzate. Noi abbiamo che si è continuati ad allungare l'età della scolarizzazione, questo serviva come serbatoio, come cuscinetto, come salvagente. Sì, camera di compensazione, certo. Adesso questo salvagente non funziona più, perché proprio la disoccupazione è diventata strutturale e di lungo periodo, cioè si può rimanere occupati per sempre. Ho visto una ricerca del Bureau International du Travail, cioè l'Organizzazione Internazionale del Lavoro dell'ONU, che dice che in tutto il mondo aumentano sempre di più il numero dei giovani che né studiano e né lavorano, cioè hanno finito di studiare e non lavorano, e c'è questo. Questo è un gap terribile, questo gap che ha delle conseguenze immorali sulla coscienza morale, sulla dignità delle persone, perché solo il lavoro dà dignità. Sì, bastano arrivare sapelli al lavoro rende liberi, perché lì sappiamo che ci ricorda qualcos'altro. Comunque è molto importante quello che diceva, tra l'altro abbiamo visto anche noi a livello strutturale, avere un giovane su quattro quasi che non né lavora né in Italia, né lavora né studia. L'operazione più difficile, Sapelli, adesso prendiamo i tre cavalieri e li mischiamo assieme. Secondo lei la variabile tassi di interesse, la variabile costo delle materie prime e la variabile occupazione sono interrelate, oppure sono tre cavalieri che cavalcano insomma, vicini ma ognuno sul suo sentiero? No, sono interrelate e dicendola in termini classici, come avrebbe potuto dirla David Maria Riccardo o Smith o Federico Caffè, è una non composizione organica del capitale, cioè quello che fa la circolazione del capitale nel mondo finanziario non collima più con quello che fa la circolazione del capitale nel mondo industriale, c'è uno scompenso, e quello che si fa nell'investimento non combina più con quello che si fa nel consumo, quindi ci sono continue contraddizioni, ma il ciclo è tutto, c'è un'interruzione del ciclo capitalistico, questo è il vero problema, quindi nel futuro potremo avere un susseguirsi di crisi molto profonde. Sapelli, visto che ce l'ho ospite, adesso stiamo in conclusione chiaramente, però mi dia due commenti, ho capito benissimo quello che lei sta dicendo, cioè questi tre elementi rischiano di bloccare un processo di globalizzazione e crescita organica, perché è chiaro che hai uno stop and go in continuazione, vai da una parte poi ti blocchi dall'altra, con tensioni continue, eccessi di produzione delle volte, eccessi di domande in altri casi, esatto. E questo non va, non va bene assolutamente come crescita organica. Due domande molto più prosaiche dei casi di casa nostra. Fiat e Marchionne, in una battuta, sta tentando di portare secondo lei la Fiat in questo processo di globalizzazione? Marchionne non è il cavaliere, però è sicuramente chi ha capito... Deve salvare la Chrysler, su cui Obama si è indebitato, lo Stato canadese si è indebitato, i sindacati americani dell'auto coraggiosissimi e dignitosissimi hanno investito, pensate un po', i loro fondi pensioni, il 66% della Chrysler è sostenuto dai fondi di pensione americani, e la Fiat ha preso questo 20% senza portare un solo denaro, cioè scambiando tecnologie. Naturalmente ciò che sarà è che già questo è stato preparato dallo scorporo tra Fiat Auto e Fiat Industrial, è che si libereranno finalmente gli agnelli dal peso di Fiat Auto e la Fiat confluirà in una grande Chrysler. Cosa questo voglia dire poi in localizzazioni, in mantenimento, come sento dire un po' stucchevolmente e con molto tremore da parte di chi pronuncia queste parole, nel mantenimento dell'headquarter, beh, questo lascio la storia giudicare, e chi ha un po' di cervello e un po' di indipendenza giudicare, insomma, non è un'altra nota, diciamo, di ottimismo. Vorrei concludere, e faccio presente che siamo inizio febbraio, non inizio novembre, Sapelli, però vorrei concludere con un altro aspetto che riguarda il Consiglio dei Ministri, doveva varare un piano di rilancio dell'economia, in realtà abbiamo visto che il decreto sulla concorrenza non è stato approvato, B, soprattutto Giulio Tremonti ha detto anche questa volta, attenzione, va bene qualunque tipo di piano, basta che sia a costo zero. Allora, fermo restando che noi siamo dell'idea che ci possa essere un ulteriore attacco ai mercati dell'Europa mediterranea a marzo, aprile, quindi meglio tenere la cassa chiusa o la cassa sotto braccio, secondo lei, insomma, che cosa dovrebbe fare Tremonti in questo momento? Cioè, fa bene Tremonti a dire no, non si tocca un euro finché questa è la condizione politica e non abbiamo certezza che il cavallo beva, per usare una mia definizione di una volta, oppure ci stiamo avvitando su questo? No, guardi, Tremonti deve fare esattamente quello che sta facendo, perché l'Italia è su un crinale fragilissimo e debolissimo, e quindi lui è pienamente consapevole che corriamo dei rischi terribili di essere investiti da uno tsunami a cui non sapremo far fronte. Bisogna tirarsi sulle maniche e imparare a fare le cose, a investire senza più aspettarsi i soldi dello Stato. E non c'è niente da fare. Mangia sta minestra o salta dalla finestra. Il periodo che si risolvevano i problemi con i soldi dello Stato è finito. Inventiamoci qualcos'altro, inventiamoci delle nuove forme di impresa. Anche in Argentina hanno creato le fabbriche recuperate, hanno creato nuove forme di proprietà, si sono inventati nuove forme. Bisogna che l'Italia cominci a riaguzzare i vecchi ingegni che ci hanno tirato su negli anni 50 senza aspettare la carità statale. Professor Sapelli, mentre lei si allontana con questo mantello nero, il bastone, io a cavallo anche lei, fa il quarto cavaliere, giustamente, certo. Mancava il quarto, eccolo lì, certo. Grazie. Certo. Grazie a Giulio Sapelli, grazie, docente dottor Marisoni, grazie, di storia, grazie, economica della Statale di Milano. Allegria, vedo che molti dicono mamma mia, no, ma attenzione, di tutto si può parlare, non è che possiamo sempre parlare dei casi di casa nostra, ragionando di queste variabili, certo che sono variabili all'orizzonte, il giudizio su Tremonti devo dire che io lo condivido in pieno, finché non c'è chiarezza sulle politiche economiche è meglio non toccare un euro e far cassa da qui a, diciamo, a giugno, quando la situazione sarà più chiara. Comunque, meteo, pubblicità, poi commentiamo la borsa, ci spostiamo in America per il maxi piano di Barack Obama di tagli, tagli alla spesa pubblica e poi quote latte, se riusciamo a trovare uno dei senatori che hanno firmato questo decreto, lo stiamo cercando, e poi l'intervista a Corrado Passera. 349-238-6666 per i vostri sms. ...17:40 di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Adesso parliamo di borsa e poi passiamo invece anche all'America, le quote latte, a Corrado Passera, insomma un po' di tutto oggi, ma è importante, lo dico, ogni tanto rifare il punto sulle variabili economiche internazionali, se no a guardarsi le punte dei piedi, ed è giusto perché abitiamo in questo paese, si perde di vista l'orizzonte complessivo. La borsa! -0,26% alla fine FTSE MIB, -0,11 Parigi, +0,34 Francoforte, invariata Londra, -0,1 l'America, diciamo non è una di quelle giornate che resteranno negli annali delle piazze finanziarie, ci sta tutto comunque anche questa. Ciao Condina, Radio Corriere sulle 24 ore, buonasera. Buonasera a voi. Autogrill. Titolo migliore oggi tra quelle maggiore capitalizzazione a Milano, +2,31%. Sì, c'è la promessa di Gianmario Tondato, l'amministratore delegato appunto della società, in un'intervista al Messaggero pubblicata ieri, di un'ulteriore espansione in mercati emergenti come l'India, Malesia, Sri Lanka, Singapore, tutti i mercati che a detta degli esperti hanno, diciamo, grossi margini di miglioramento di redditività, quindi insomma si presume che il gruppo possa trarre ulteriori benefici da questa espansione. Sempre nell'intervista Tondato cita poi questo dato sul rientro post weekend, domenica 2 gennaio nuovo record di vendite negli autogrill, 6,25 milioni di euro, evidentemente gli operatori hanno stimato che questo dato riferito solo a un giorno possa essere indicativo di un trend molto positivo per l'azienda. Ancora no, sorrido perché c'è un ascoltatore che dice che gli sono apparso in sogno come un cavaliere con la faccia, mamma mia, no, noi invitiamo anche gli scettici, anche i critici, devo dire, attenzione, che purtroppo in questi ultimi 10 anni da quando esiste questo programma, gli entusiasti poi si sono rivelati dei venditori un po' di sole, e invece chi metteva in guardia ha, purtroppo lo dico, ha avuto ragione. Anch'io avrei preferito non avere la crisi del fine 2008, avrei avuto borse in costante crescita, redditi netti, potere d'acquisto in aumento, ma così non è andata, è un'altra storia. +2,05% Prismian. Per quanto riguarda Prismian invece c'è un effetto, diciamo, concorrenza, perché Nexans, la francese che fondamentalmente fa lo stesso mestiere di Prismian, oggi ha dato il preconsuntivo 2010 con un balzo del giro d'affari, addirittura gli utili sono decuplicati rispetto all'anno scorso da 8 milioni a 82 milioni, certo l'anno scorso era un periodo di grande crisi, ma insomma gli operatori a vedere i risultati di Nexans hanno previsto risultati sullo stesso tenore anche per Prismian. Ancora, STMicroelectronics che non se l'era passata benissimo per via soprattutto dell'accordo che abbiamo raccontato di Apple, però insomma Nokia Apple +0,92% oggi. Sì, venerdì era andata male anche perché Nokia, che sempre venerdì era addirittura crollata, che ha perso il 14%, non aveva dato fondamentalmente target finanziari per il 2011, da qui Nokia, primo fornitore di ST, che era stata punita in borsa, oggi il più classico dei rimbalzi, +0,92%, fondamentalmente c'è qualcuno che ha ritenuto il titolo economico dopo il crollo di venerdì e quindi ha deciso di comprare. Poi c'è un caso di borsa, a mio avviso, che si chiama Buzzi Unicem, settore costruzioni, come dice anche il nome, settore cemento. Insomma, da quando ha diffuso i conti a inizio febbraio, se non ricordo male il 9, ha fatto un +13%, cioè. Sì, e anche oggi un +1,3%. Sì, piuttosto curioso, anche perché il giorno che ha diffuso i conti aveva annunciato anche questa svalutazione da 100 milioni che avrebbe influenzato fortemente, negativamente il risultato netto 2010, insomma quel giorno aveva perso, poi è iniziato questo rally, +13% addirittura, gli operatori non riescono a spiegare fino in fondo una crescita che insomma solo il futuro potrà dirci quale sia il reale motivo, insomma ci sono diversi motivi che possono influire evidentemente ovviamente sulla crescita di una società in borsa, o i conti che sono buoni, oppure ci possono essere delle manovre di cui noi non siamo ancora a conoscenza. Altri titoli dopo il traffico, 349-238-6666 per i vostri sms. Di nuovo in diretta. Allora, Fiat, dopo le rassicurazioni fornite da Marchionne al Presidente del Consiglio Berlusconi, il titolo oggi mi sembra, ormai bisogna parlare delle Fiat, Fiat Auto più 1%, Fiat Industrial più 1,25%. Nell'incontro di sabato, fondamentalmente la società torinese ha ribadito gli obiettivi di sviluppo del famoso progetto Fabbrica Italia con i suoi relativi 20 miliardi di euro di investimenti. Una giornata positiva per Fiat, anche se insomma un punto percentuale può anche non essere legato necessariamente a quello che no, è successo. No, infatti. Ultima battuta, lavora invece sul titolo che è il peggiore oggi, le banche deboli, l'abbiamo detto, Pop Milano più 1,82, Ubibank meno 1,70, scusatemi, meno 1,82, Ubibank meno 1,70 come Diasorin, Monte dei Paschi meno 1,40, Generali meno 1,20, Intesa meno 1,1 come Impregilo, e Unicredito perde lo 0,90, Fondiera sai, meno 2% quasi. Sì, Fondiera Sera sotto pressione anche venerdì, non ci sono motivi specifici dietro questo passaggio a vuoto di Fonsai, ma tra gli operatori di borsa c'è la sensazione che ci possono essere ulteriori incertezze sul riassetto di Premafin, la holding dei Grezzi, che come sappiamo vedrà il possibile ingresso di Groupama. Premafin, come sappiamo, anche controlla Fonsai, è atteso un verdetto della Consob sull'esenzione dall'OPA per l'ingresso di Groupama in Premafin. Verdetto che è stato promesso più volte dal nuovo presidente della Consob Vegas, ma che tuttavia tarda ad arrivare. Insomma, quindi incertezza, nervosismo degli operatori, è un titolo che continua a cedere in borsa. Il migliore in assoluto, Meridiana Fly più 13%. Ha fatto fino a un più 15% teorico, no? Una asta piena di volatilità per Meridiana. Sì. Il gruppo oggi ha confermato l'esistenza di contatti per una possibile fusione all'Italia Lufthansa, no? Sì, con le società che dici tu, sì. Con l'Italia Lufthansa, e quindi ovviamente gli operatori sono scatenati ad acquistare. Beh, se non è volatile Meridiana. Vabbè, Falck Renewables meno 18,4, Zucchi meno 6,23, Icon meno 5,90, First Capital meno 5,24, questi peggiori. Grazie a Ceo Condina, Radio Corri, sulle 24 ore. Grazie. Noi adesso ci spostiamo a New York o a Washington, per meglio dire. Perché Barack Obama ha annunciato un piano durissimo. Oggi c'erano varie anticipazioni sui giornali. Un piano durissimo per riportare il deficit americano, che viaggia al 12%, addirittura al 2,7% o 2,5% entro il 2015. O al massimo al 3%. Insomma, praticamente pensate che i tagli annunciati oggi sono... La finanziaria di Barack Obama vale 3.700 miliardi di dollari su 10 anni, per carità, di cui 1.100 miliardi di riduzione del deficit nei prossimi 10 anni, sono 110 miliardi l'anno. In collegamento da New York, Alberto Bisin, che è economista, editorialista della Stampa, ha scritto anche un pezzo recentemente sul Foglio. Buonasera, professore. Buonasera. Allora, primo giudizio, insomma, è vero che questo è un taglio che in qualche modo soddisfa o viene incontro alle richieste dei conservatori, dei Tea Party americani, cioè meno Stato, meno ingerenza statale? Io ricordo che lo Stato è intervenuto per salvare le banche private, per salvare i debiti privati delle banche, delle grandi agenzie di mutuo e di assicurazione, ma insomma, va in questa direzione? Sì, in questa direzione certamente. La dimensione in realtà è molto più bassa di quello che i repubblicani volevano, naturalmente, insomma, i repubblicani sono in questo molto estremi. Però sì, non sono certo, diciamo, di poter dire che sia così così qualitativamente una cosa storica, insomma, va nella direzione giusta, non è così grande, insomma, sono alla fine sono appunto, come lei diceva, un 1.000 miliardi, ma in 10 anni, sono 100 miliardi all'anno, tutto sommato, insomma, tipo lo stimolo fiscale è stato praticamente altrettanto. Sì, in 2 anni. Dove li trova questi soldi Obama? Perché ci interessa, abbiamo visto previsioni di risparmi per 400 miliardi di dollari nei prossimi 10 anni, i repubblicani volevano molto di più. Ma insomma, dov'è che taglia? Anche lì taglia un pochino al Pentagono, sia una ristrutturazione proprio di costi diretta, sia oggettivamente una previsione che i costi per le guerre nei prossimi 10 anni scenderanno. Magari. Quindi da lì c'è parecchio. E poi taglia alcuni progetti, alcuni diciamo piani, però abbastanza marginali, cioè ad esempio c'è un sussidio per il riscaldamento delle famiglie povere negli stati freddi, questo vale abbastanza, vale una 30 miliardi in 10 anni, credo. Quindi taglia cose di questo tipo, insomma, abbastanza marginali. Ma è vero, le risulta che tagli anche delle variabili, chiamiamole così, o delle priorità tipicamente democratiche, come la riforestazione dei parchi, i programmi ambientali, le sovvenzioni per i programmi a sostegno della comunità, e oltre ai quasi 80 miliardi di taglio al Pentagono? Esatto, sì, taglia anche questi piani. Questo credo che sia appunto anche lì, da un punto di vista quantitativo non è molto, però è un chiaro segnale, una mano tesa ai repubblicani, insomma. Questi sono tutti però diciamo programmi appunto relativamente marginali che indiscutibilmente, ad esempio in Illinois, che è uno dei paesi freddi, Obama pagherà un costo per questo, però le sovvenzioni al riscaldamento leva anche, no? Esattamente, le sovvenzioni al riscaldamento, queste insomma sono ovviamente piani che a cui i democratici tengono, e quindi in questo senso sta facendo una mossa. Ovviamente il problema insomma c'è relativamente poco che si possa raschiare su quello. Quello che Obama non fa, cioè lo capiamo tutti, ma insomma, quello che Obama non fa è non tocca Medicare, Medicaid e Social Security, che sono insomma dove il grosso della spesa è, soprattutto nei prossimi 10 anni. Allora, professor Bisin, io mi rendo conto che nulla può essere più distante dall'America quanto le quote latte. Io però dopo vorrei riuscire a affrontare il tema delle quote latte in Italia, però se resta in collegamento con noi dopo il GR, un'ultima domanda per lei: il dato di oggi sulla revisione a ribasso del PIL statunitense, 349-238-6666 per i vostri sms, il GR. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Berisoni per concludere l'approfondimento dedicato all'America. Oggi infatti l'annunciata e attesa, chiamiamola così, manovra finanziaria, ulteriore taglio al budget del presidente Barack Obama per riportare il deficit sotto controllo. Professor Bisin, le avevo chiesto prima dell'interruzione un commento però anche su un'altra notizia. Questa era già in parte anticipata oggi dai giornali: i 3.700 miliardi di finanziari, 1.100 miliardi in 10 anni di riduzione del deficit. L'America però oggi ha rivisto al ribasso la stima sulla crescita nel 2011, e non di poco, dal 3,6% al 2,7%, e un po' al rialzo la disoccupazione, dal 9 al 9,3%. Come mai una revisione così brusca, soprattutto del PIL? Dunque, onestamente non lo so da dove venga. Diciamo che in parte ci sono stati diciamo, dei commenti sul fatto che questa revisione prenda in conto o non prenda in conto il taglio delle tasse di poco tempo fa. Quindi non mi è ancora chiaro se la prende in conto o meno, diciamo, quindi questo potrebbe essere una ragione. Peraltro credo che in parte questo venga da dati su disoccupazione ancora molto molto insomma negativi. Ecco, nel frattempo abbiamo assistito a una spostamento di quello che è il debito americano, il tema interessa molto anche gli europei, perché i cinesi hanno comprato a man bassa debito portoghese e spagnolo soprattutto, tranquillizzando, speriamo non solo momentaneamente, ma temiamo sia così, i mercati. E mi riferisco alla parte ottobre-novembre della seconda ondata speculativa sui debiti europei. Nel frattempo, dicevo, il maggior creditore degli Stati Uniti sono gli Stati Uniti stessi, o meglio la Banca Centrale Americana, che ha superato la Cina. Cioè, ormai la Banca Centrale Americana, la Federal Reserve, ha in portafoglio 1.108 miliardi di bond americani, di treasury bonds, contro i 900 miliardi della Cina e i 900 miliardi del Giappone. Cioè, Cina e Giappone da soli fanno comunque e di più. Ma questo, secondo lei, corrisponde a una logica razionale, di strategia, o è dovuto più alla necessità, perché insomma è una strategia che abbiamo commentato più di breve, brevissimo termine? Esatto, io credo che sia il secondo caso. Cioè, non è una voglia di, non è una voglia di non dipendere più così tanto dai risparmi dei cinesi? No, non credo. Io credo che stiano cercando, sì, di tenere bassi i tassi. fa parte di tutta questa logica, diciamo, in cui la Banca Centrale Americana sta cercando di buttare tanta liquidità quanto è possibile, con sotto la convinzione che riusciranno a ritirarla nel momento in cui riparte l'inflazione. Come si ritira la liquidità? Come si ritira la liquidità? No, dico, non è che uno va e dice adesso ridatemi i soldi che ho messo in circolo, no? Beh no, si rivendono appunto i bot, si rivendono i bot sul mercato, quindi a un tasso di interesse più alto, e questo drena la liquidità essenzialmente. Non c'è altro modo, la questione è quanto rapidamente si riesca a fare, insomma. Chiaramente la Fed è convinta di riuscire a controllare il meccanismo molto bene, molto rapidamente. Non è mai successo, non è mai stato fatto. E quindi non resta che aspettare e vedere. Non credo che ci siano, per quanto ne so io, non ci sono proprio, diciamo, precedenti di ritiro di liquidità di queste dimensioni così rapidamente come la Fed garantisce che può fare. Quindi... Ecco, mi dica un'ultima cosa: nel frattempo, mentre Barack Obama taglia anche delle spese storicamente attribuibili ai democratici, mi riferivo appunto alla riforestazione dei parchi, i programmi ambientali, i programmi di sostegno delle comunità, le sovvenzioni per il riscaldamento, Wall Street ha dato il via alla nuova stagione dei bonus. No, prima ci sono i saldi per noi comuni mortali, poi ci sono i bonus di Wall Street. JP Morgan ha accantonato lo scorso anno abbastanza, pensate un po', per pagare ogni dipendente ai media $370,000. E Goldman Sachs distribuirà in media $430,000. Sono tutto un po' in calo rispetto al 2009, però fanno impressione. E complessivamente le grandi banche d'affari che sono rimaste vive dopo la crisi, cioè Goldman Sachs, JP Morgan, Citigroup e Morgan Stanley, distribuiranno complessivamente 85 milioni in bonus. Cioè, voglio dire, è tornato l'America a due facce, a due velocità, a due mondi. Beh, insomma, è sempre stato così. Le banche sono state completamente lasciate, insomma, sostanzialmente Obama non ha, nonostante abbia parlato in qualche occasione, eccetera, abbia preso posizione contro, non ha mai toccato le banche. E oggettivamente questo significa che le banche da questa crisi, queste banche, diciamo, quelle che non sono crollate, queste banche hanno fatto un mucchio di soldi e li distribuiscono a chi glieli ha fatti fare. In un certo senso il meccanismo è questo, no? Si remunerano i manager che hanno fatto far profitti, e questi li hanno fatti fare i profitti agli shareholders. Lo hanno fatto probabilmente più attraverso i contatti con la Fed e il Tesoro, diciamo, catturando il regolatore, a mio modesto avviso, però l'hanno fatto, e quindi adesso vengono ricompensati. È orribile, ma io credo che sia così. Non c'è ragione per punire i manager di queste banche dal punto di vista degli shareholders. Eh sì, va bene, io speravo lei mi raccontasse invece che Barack Obama sta stringendo, ha confermato quello che noi temiamo, e però non voglio ripetermi, dice Timothy Geithner, che è un amico e tornerà a lavorare lì, ci chiede come fa la banca centrale americana a comprare i titoli del tesoro. Certo che stampa moneta, emette moneta, compra i titoli e poi lì, come ricordava prima, è questo il modo in cui si genera liquidità, cioè quando la banca centrale compra le obbligazioni che ha messo lo Stato, mette moneta in circolo, no? Poi, come ricordava il professor Bisin, quando vorrà invece dare una stretta alla liquidità, le rimetterà sul mercato, quindi le farà comprare e probabilmente anche a tassi un po' più alti. Grazie, grazie Alberto Bisini, collegamento con noi da New York. Adesso il traffico, 349-238-6666 per i vostri sms. E noi, in attesa che ci risponda qualche senatore di quelli che hanno firmato, li stiamo cercando tutti da ore, quelli che hanno firmato la legge che fa slittare di altri sei mesi il pagamento delle quote latte con 30 milioni di costo per noi cittadini, per 558 furbi, no, diciamo banditi, si può dire, ma sì dai, reiterati tra l'altro, 30 milioni che verranno presi dai fondi per i servizi sociali, non finirò mai di ripeterlo perché lo trovo una cosa inaccettabile. Dicevo, restiamo sul tema dei mega bonus ai manager di Wall Street, ma non solo, di queste banche che hanno creato la crisi e poi si sono riprese subito e si stanno distribuendo bonus, mentre l'America deve fronteggiare appunto 1.100 miliardi di taglio al deficit perché il deficit è cresciuto per salvare le stesse banche. E perché lo dico? Perché oggi il numero uno di Intesa San Paolo, Corrado Passera, ha raccontato, insomma, il mondo della finanza nel corso di un ciclo di incontri con gli studenti dei vari licei e scuole superiori italiane. Si chiama Cultura Finanziaria a Scuola, per prepararsi a scegliere. Devo dire, una bellissima iniziativa dell'Osservatorio Permanente Giovani Editori. E gli abbiamo chiesto come si fa a raccontare ai giovani la finanza dopo quello che è successo negli ultimi due anni e, diciamo, le dimostrazioni di sé che ha dato la finanza mondiale. Non è facile, però è sicuramente possibile, portando esempi, dimostrando che sia la finanza che l'economia non sono dei tutti uguali. Alla crisi diversi paesi hanno reagito molto diversamente, alla crisi hanno contribuito molto diversamente. Bisogna aiutarli a capire che le ragioni della crisi sono molto varie, non c'è la ragione, ci sono stati errori di politica monetaria, ci sono stati errori di regolazione del settore finanziario, soprattutto nel mondo anglosassone, ci sono state mancanze di controlli, ci sono stati comportamenti del tutto disdicevoli da parte di banche, di istituzioni, di intermediari in varie parti del mondo, ci sono stati, ripeto, molti paesi che sono passati attraverso la crisi meglio degli altri, ci sono problemi culturali, cioè dobbiamo convincerci che il mercato ha delle sue utilità ma anche dei suoi grandi limiti, ci sono delle sensibilità da sviluppare anche dal punto di vista politico, la combinazione di quale tipo di capitalismo, quale tipo di modello sociale sono cose molto rilevanti, per cui aiutare i ragazzi a rendersi conto delle varie componenti che poi fanno l'economia ma soprattutto la società è un esercizio che di solito trova i ragazzi grandemente interessati, come oggi è successo. Ecco, ai ragazzi bisognerebbe anche spiegare che forse c'è stato un eccesso di liquidità, di leva finanziaria, poi spiegandoglielo magari in una maniera ancora più semplice, rispetto all'impiego di capitale. Secondo lei, venendo ai temi poi del presente, c'è in questo momento il rischio di un eccesso di liquidità a fronte di una scarsità di capitale, perlomeno in Europa? Beh, certamente si è spiegato che una delle ragioni che ha portato alla crisi è stato l'eccesso di debiti, l'eccesso di indebitamento, e questo lo capisce anche qualcuno che non è ancora entrato nel mondo dell'economia né nel mondo del lavoro. Certamente è un po' più difficile spiegare il tema delle bolle finanziarie e dei problemi che vengono creati attraverso un eccesso di offerta di moneta. Oggi siamo di nuovo in una situazione, in taluni paesi soprattutto, di grandissima offerta di liquidità che di per sé è un qualcosa di rischioso in termini di sostenibilità del tempo. Ecco, secondo lei la spinta a cui assistiamo sulle materie prime alimentari, non solo, commodities in generale, è dovuta a una liquidità che non riesce a trovare un investimento più di medio termine e quindi come anche private equity? E in secondo luogo, Basilea 2/3 stanno rappresentando ulteriormente una barriera alla trasformazione di liquidità in, diciamo, capitale, per essere molto semplici? Beh, il tema della formidabile volatilità nel mondo delle commodity, cioè delle materie prime, è un problema grave. È un problema grave perché poi tocca beni anche importantissimi come quelli dell'energia, ma soprattutto quelli dei beni alimentari. Questa volatilità, questa enormità di escursione dall'alto al basso è dovuto anche a un eccesso di speculazione che non si ha, secondo me, il coraggio di voler almeno in parte regolamentare, e nel campo delle materie prime si potrebbe in qualche modo fare per evitare gli abusi e gli eccessi che ci sono. Per quanto riguarda Basilea 2 e Basilea 3, sicuramente vanno nella direzione di correggere alcune delle ragioni della crisi. Nel momento in cui mettono un limite all'indebitamento, all'effetto leva che lei prima citava, rafforzano le patrimonializzazioni delle banche, riducono la speculazione sulle scadenze, cioè la cosiddetta trasformazione delle scadenze, evitando che ci siano troppe banche che raccolgono a breve e investono a lungo, e quindi si creano un livello di rischio che poi è stato uno dei rischi che maggiormente hanno creato la crisi. Beh, tutto questo va nella direzione giusta di evitare future crisi. È chiaro che nell'introdurre nuove regole bisogna saper valorizzare la parte più legata all'economia reale dell'intermediazione finanziaria e non penalizzare istituzioni che possono essere molto utili per il riavvio della crescita attraverso il credito alle aziende e alle famiglie. Ancora due domande per lei. Secondo lei in questo momento la Banca Centrale Europea è eccessivamente, diciamo, prudente o ossessionata, come dico io ogni tanto, dall'inflazione? Beh, la Banca Centrale Europea ha gestito la crisi in maniera assolutamente efficace e naturalmente deve badare anche a quell'aspetto, perché il rischio dell'inflazione c'è, anche se ovviamente oggi non è il principale. Financial Times di oggi dice che Mario Draghi sarebbe un ottimo presidente della Banca Centrale Europea. Siamo in molti a pensarlo. Dottor Passera, il giorno dopo una manifestazione che ha visto le donne rivendicare il loro ruolo, al di là di qualunque valutazione poi politica, però insomma c'è un tema che parte anche di un disegno di legge sulle quote rosa. Da molti viene detto, attenzione, le quote rosa rischiano di essere paradossalmente un elemento antimeritocratico, perché ingabbiano poi quella che è la quota di donne nel nostro paese. Altri dicono, sì, ma noi siamo così indietro che senza quote non arriverà da nessuna parte. No, guardi, fin dall'inizio della discussione di questo disegno di legge io mi sono schierato fortemente a favore di questo provvedimento. Certamente da un punto di vista puramente teorico è un qualche cosa di non perfettamente meritocratico, ma siccome è talmente non meritocratico avere così poche donne nei consigli di amministrazione, un intervento magari provvisorio per un certo numero di anni che forzi almeno le aziende quotate ad aumentare il numero di professioniste donne nei consigli di amministrazione, che io assolutamente lo spingerei. Anche come numero uno di una banca italiana? Assolutamente. Ultima domanda, che riguarda invece i casi di casa vostra, sulla ipotizzata fusione dell'esperimento gestito Pioneer e Horizon. Voi siete sempre stati un po' freddi, vuole commentarla? Non ho per ora commenti da fare, se ci saranno si faranno al momento giusto. Così, Corrado Passera intervistò oggi nei nostri microfoni. I senatori della Lega che hanno votato questo slittamento delle quote latte, li stiamo cercando tutto pomeriggio, ci hanno anche risposto prima, ma adesso sono impegnati in votazione. Sono il senatore Vallardi, il senatore Bodega, soprattutto i primi firmatari di questo slittamento. Non lo so, noi la speranza non la molliamo, Quello che ci molla è il tempo, perché ormai mi resta un minuto prima di salutarvi. Allora io vi ricordo che domani torneremo sul tema delle quote latte, ma molti di voi ci hanno chiesto che cosa è successo. È successo che in un decreto legge che è diventato, alla fine è passato, i 558 splafonatori irriducibili, questo termine mi fa impazzire, splafonatori irriducibili, su oltre 39.000 aziende che producono latte, sono quelli che non si sono messi in regola neanche quando hanno avuto la possibilità della sanatoria alle mani nel 2003. Ebbene, l'Europa ci multa, paga prima lo Stato e poi dovrebbe chiedere i soldi a loro. Questo giochetto di spostare di 6 mesi il pagamento dovuto costerà 30 milioni di euro, tutti soldi che arriveranno da un taglio lineare fino al 3% della tabella C della legge di stabilità, e quindi tra l'altro dai fondi per le politiche sociali, la famiglia, il diritto allo studio e i finanziamenti all'università. Dove si trovano? Per lo più in Veneto, abbiamo cercato anche il governatore Zaia, anche in quanto ex ministro all'agricoltura, ma nessuna risposta nemmeno da lui, per lo più in Veneto e qualcuno anche in Lombardia. Noi ci ritentiamo, domani riproveremo con i senatori leghisti Vallardi, Montani, Mauro, Bodega e Garavaglia. Per ora è veramente tutto, speriamo di avere maggior fortuna domani, ci teniamo molto a questo tema. Non mi resta che augurarvi una buona serata e noi ci sentiamo dalle 17 in poi con un'altra puntata di Focus Economia. Radio 24, la passione si sente.